Capitolo 18 ripresa. Se tutti i fratelli fossero trattati come fu loro in quel tempo, sarebbero una razza di uomini molto più felice di quanto non lo siano. Amy non gli faceva più predicozzi adesso, gli domandava la sua opinione su tante cose e si interessava di tutto ciò che faceva. Gli preparava regalucci deliziosi, gli scriveva 2 volte alla settimana e le sue lettere erano vivaci, piene di chiacchiere, di confidenze fraterne, di schizzi delle cose belle in mezzo alle quali ella si muoveva. Pochi sono i fratelli le cui lettere vengono portate in tasca dalle sorelle, lette e rilette con attenzione, baciate quando sono lunghe, conservate come tesori. Noi non insinueremo però che Amy facesse tutte queste sciocchezzuole affettuose, ma certo è che in quella primavera ella divenne alquanto più pallida e pensosa. Perse molto il gusto di andare in società e passò lunghe ore sola a disegnare. Veramente, quando tornava a casa non aveva granché da far vedere nell'album, ma studiava la natura, secondo ogni probabilità, per intere mattinate e pomeriggi, con le mani in mano e le dita intrecciate lassù, sulla terrazza di Valrosa, oppure con la matita disegnava distrattamente qualche fantasia che le passava per il capo. Un bel cavaliere adusto scolpito sopra una tomba, una giovane figura di uomo addormentato sull'erba, col cappello calato sopra gli occhi. Una fanciulla ricciuta in ricche vesti che attraversava una sala da ballo al braccio di un elegante giovanotto dall'alta statura. I volti non si riconoscevano, secondo la moda dell'ultima scuola, il che era prudente, ma tutto sommato poco soddisfacente per l'occhio. La zia credeva che ella fosse pentita della risposta data a Fred, e Amy, vedendo che era inutile negare e impossibile farle capire le cose, lasciò che pensasse ciò che voleva. Soltanto ebbe cura di fare in modo che Lori sapesse che Fred era partito per l'Egitto. Nient'altro. Ma parve che ciò gli togliesse un pensiero, poiché egli disse a se stesso, con l'aria di un uomo che ha vissuto molto: lo sapevo che ci avrebbe pensato meglio. Poveraccio, ci sono passato anch'io e sono in grado di compatirlo. Dopodiché, Lori trasse un gran sospiro e poi, come colui che ha pagato il suo debito al passato, ritirò i piedi sopra il sofà e si mise a rileggere con molto gusto la lettera di Amy. Mentre queste cose succedevano in Europa, sulla casa dei March piombava la sventura. Ma la lettera in cui le annunciavano che Beth era agli estremi, Amy non la ricevette mai. Quando le giunse quella successiva, sulla povera sorella cresceva già l'erba. La triste notizia la trovò a Vevey, poiché in maggio il caldo li aveva fatti scappare tutti da Nizza. Avevano raggiunto la Svizzera facendo un largo giro per Genova e per i laghi della Lombardia. Amy ricevette l'annuncio con rassegnazione e senza grande sforzo aderì al desiderio dei suoi, i quali non volevano che la troncasse il suo viaggio, visto che ormai era troppo tardi per dire addio a Beth. Era meglio che lei rimanesse dov'era e lasciasse alla lontananza la cura di alleviare il suo dolore. Ma sul cuore ella aveva un gran peso. Avrebbe voluto essere a casa e ogni giorno guardava, pensosa e impaziente, oltre la tavola, il posto vuoto, dove sarebbe venuto a sedersi Lori a farle compagnia e a consolarla. E Lori venne prestissimo. La stessa posta aveva portato la notizia ad ambedue, ma egli era in Germania e la ricevette qualche giorno più tardi. Subito fece il sacco, era in escursione a piedi. Salutò i compagni e partì per mantenere la promessa, col cuore agitato insieme dalla gioia e dal dolore, dalla speranza e dal dubbio. Vevey la conosceva bene e appena il battello accostò alla piccola banchina, egli saltò a terra e corse alla tour, alla pensione dove alloggiavano i Carroll. Il garçon era dolentissimo, tutti fuori, a una passeggiata sul lago. Ma no, quella signorina bionda forse era nel giardino del castello. Se Monsieur aveva la bontà di accomodarsi, in un secondo lui l'avrebbe chiamata. Ma Monsieur non poteva aspettare nemmeno un secondo, e prima che l'uomo chiudesse la bocca era già scomparso a cercare la signorina. Il vecchio giardino giaceva in riva al lago, sotto una chioma frusciante di castagni e l'ombra nera della torre che si stendeva lontano, sull'acqua scintillante al sole. A un angolo dell'ampia muraglia bassa c'era una panchina, sulla quale Amy veniva sovente a leggere, a lavorare, a cercare conforto nella bellezza del luogo. E Lori la trovò là, col capo appoggiato ad una mano, col cuore pieno di nostalgia e gli occhi gonfi di pianto. Pensava a Beth e a Lori che ancora non veniva. Non lo udì attraversare il cortile alle sue spalle, ma lo vide fermo sotto l'arco del passaggio sotterraneo per il quale si entrava nel giardino. Per il momento egli la stette a guardare con occhi nuovi e vide ciò che nessuno fino a quel giorno aveva veduto, la tenerezza che c'era nel carattere di Amy. Tutto intorno a lei suggeriva, senza parlare, amore e cordoglio. La lettera in grembo, macchiata di lacrime, il nastro nero che le teneva legati i capelli, l'aria addolorata e paziente del volto gentile, persino la crocetta d'ebano che le pendeva sul petto commosse Lori, perché gliel'aveva regalata lui ed era l'unico ornamento che Amy aveva indosso. Se egli nutriva dei dubbi sull'accoglienza che avrebbe trovato, essi scomparvero appena lei levò gli occhi e lo scorse. Lasciò cadere tutto ciò che aveva in mano e gli corse incontro, esclamando con un tono in cui si sentiva l'amore e l'attesa: «Oh, Lori, Lori, lo sapevo che saresti venuto!» Credo che ogni cosa fu detta, fu decisa in quel momento. Tacevano. Amy sentì che nessuno poteva essere di conforto e di aiuto al pari di lui. Lori si convinse che nessun'altra donna al mondo all'infuori di lei poteva prendere nel suo cuore il posto di Joe e dargli la felicità. Non glielo disse, ma non si ingannarono né lui né lei. Erano contenti e non aggiunsero parola. Il silenzio era abbastanza eloquente. Amy tornò a sedersi e mentre si asciugava le lacrime, Lori raccoglieva le carte lasciate cadere da lei, quelle lettere spiegazzate, quei disegni suggestivi erano di buon augurio per il futuro. Egli le sedé accanto. Amy, timida, imbarazzata, arrossiva al pensiero delle parole che aveva detto con tanto calore nel vederlo. Non mi sono potuta tenere, ero così triste e sola e mi ha fatto piacere la tua apparizione. Che sorpresa, levando gli occhi, trovarti lì, proprio quando cominciavo a temere che tu non venissi. Amy cercava di darsi un tono naturale, ma non le riusciva. Sono partito appena ho saputo. Vorrei poter trovare le parole per consolarti. Quella cara, povera Beth, ma quello che provo nel cuore. E non poté dire altro. Anche lui d'un tratto si sentiva timido, imbarazzato. Aveva una gran voglia di attirare la testa di lei sopra la sua spalla, a piangere, a sfogarsi, ma non osava. Le prese invece la mano e gliela strinse a lungo. E quella stretta disse più di qualunque discorso. Non abbiamo bisogno di spiegarci noi, ella disse sommessamente. È questa una gran consolazione per me. Adesso Beth è felice e io non le augurerei di tornare, ma andare a casa mi fa paura, eppure non vedo l'ora di andarci. Basta, non ne parliamo adesso, mi viene troppo da piangere e voglio godermi la tua presenza finché rimani. Non devi mica ripartire subito, è vero? Se tu mi vuoi qui, no, cara. Se ti voglio, e come? La zia e Flo sono molto buone, ma tu per me sei come uno della famiglia. Mi farebbe tanto bene averti qui per un po'. Amy parlava come una bimba che ha il cuore pieno di nostalgia, tanto che Lori in un istante dimenticò la sua timidezza e le diede proprio ciò che ci voleva per lei in quel momento, le carezze a cui era abituata e la conversazione lieta e animata di cui aveva tanto bisogno. Povera piccola, sembri un po' malata. Non piangere più, ti voglio curare io. Vieni, facciamo due passi. C'è vento, fa troppo fresco per stare fermi. Le parlava con quel tono fra la dolcezza e il comando che a lei piaceva tanto. Le annodava il nastro del cappello sotto il mento, le prendeva il braccio sotto il suo, la traeva nel sole, su e giù per il viale, sotto il fogliame nuovo dei castagni. Camminando egli si sentì più saldo sulle gambe e Amy si appoggiò con gioia a quel braccio forte, davanti al sorriso del bel volto familiare, con quella voce così dolce che parlava per lei sola. In vita sua, il vecchio e curioso giardino aveva accolto molte coppie di innamorati e pareva fatto apposta per questo, senza nulla che lo dominasse, fuorché la torre con la distesa del lago ai suoi piedi, per portare l'eco delle parole sull'acqua appena increspata. Per un'ora la nostra coppia vi passeggiò conversando, sedendo ogni tanto sul parapetto, godendosi tutti i dolci influssi che davano tanto fascino a quel luogo e a quell'ora. Quando la campana del pranzo li avvertì che dovevano andarsene, parve ad Amy di lasciare lassù, fra le aiuole fiorite, tutto il peso della solitudine e della tristezza che aveva in cuore. Appena la signora Carroll vide l'espressione mutata del volto di lei, le balenò una nuova idea. Ella disse fra sé: «Adesso ho capito tutto. Questa ragazza smaniava per il giovane Lawrence. Oh, signore, chi ci avrebbe mai pensato?» Con lodevole discrezione, la buona signora non disse nulla, non diede segno di aver compreso, ma con molta cordialità insisté perché Lori si trattenesse e perché Amy restasse un po' a godersi quella vita che le avrebbe fatto molto bene dopo tanta solitudine. Amy non se lo fece dire due volte e, siccome la zia era molto occupata con Flo, restò lei per fare compagnia all'amico e gliela fece con successo, anche maggiore del solito. A Nizza, Lori oziava e Amy rimproverava. A Vevè Lori non fu mai inattivo, passeggiava, cavalcava, vogava, studiava, tutto con molto trasporto, e Amy trovava bello tutto ciò che gli faceva e seguiva il suo esempio fin dove e come le era possibile. Egli attribuiva il suo cambiamento al clima e Amy non lo contraddiceva, lieta di avere una scusa anche lei per il buon umore ritrovato. L'aria faceva molto bene ad entrambi e in entrambi il moto produceva un miglioramento fisico e spirituale. Lassù, fra le eterne vette, pareva che essi acquistassero idee più chiare sulla vita e sul dovere. Le fresche auree montanine portavano via ogni dubbio, ogni scoraggiamento, fantasie ingannatrici e nebbie del malumore. Il sole tiepido di primavera faceva sbocciare idee e aspirazioni, tenere speranze e pensieri felici. Pareva che le onde del lago portassero via gli affanni del passato, e le alte cime li guardassero di lassù con benevolenza e dicessero loro: «Amatevi, ragazzi, amatevi». Quello fu, malgrado il recente dolore, un tempo felice, tanto felice che Lori non osava dire una parola sola che potesse turbarlo. Gli ci volle un po' di tempo per riaversi dalla sorpresa di essere così rapidamente guarito dal suo primo amore e, credeva, unico. Dell'apparente tradimento si scusò con se stesso, pensando che una sorella di Joe era quasi la stessa cosa che Joe e che di nessun'altra donna gli sarebbe stato possibile innamorarsi così presto e così bene. Il suo primo amore era stato di quelli burrascosi e, ripensandoci, gli pareva di vederlo sotto una prospettiva lontana, e ne provava insieme compassione e rimpianto. Non se ne vergognava, ma lo metteva da una parte come un esperimento amaro e dolce insieme, una cosa da ricordare con riconoscenza quando il dolore fosse passato. Il secondo amore si propose di volerlo calmo e senza complicazioni, per quanto possibile. Niente scenate, nemmeno quasi il bisogno di dire a Amy che l'amava, perché lei lo sapeva senza dirglielo, e gli aveva anche dato la sua risposta da un pezzo. Veniva così naturale che non era il caso per nessuno di lamentarsene, ed egli sapeva che faceva piacere a tutti, Joe compresa. Ma quando la nostra prima passione ci ha fatto soffrire, si è prudenti, si va adagio nel fare la seconda prova, e perciò Lori lasciava passare i giorni, godendoseli ora per ora, e affidando al caso l'incarico di dire la parola che avrebbe posto fine alla prima parte, la più dolce, del nuovo romanzo. Immaginava che, secondo ogni probabilità, lo scioglimento dovesse avere luogo nel giardino, al lume di luna, e nella maniera più graziosa e più poetica. Invece, successe tutto al contrario. La faccenda fu decisa sul lago, a mezzogiorno, e con poche parole spicce. Erano stati in barca tutta la mattinata, dal cupo San Gingolfo a Montreux sulla Tia, con le Alpi da una parte e dall'altra il San Bernardo e le Dents du Midi. Nella valle la vista graziosa di Vevè, con Losanna sull'altura retrostante e il cielo senza nubi nello sfondo, e ai loro piedi l'acqua del lago, punteggiata da quei pittoreschi battelli che sembrano gabbiani con le ali aperte. Passando davanti a Chillon, parlarono di Bonivard e, levando gli sguardi verso Clarin, si ricordarono di Rousseau, che vi scrisse la nuova Eloisa. Nessuno di loro due l'aveva letta, ma sapevano che era una storia d'amore, e ambedue pensavano che quell'amore non poteva essere interessante quanto il loro. In un breve silenzio, Amy, dopo essersi divertita ad agitare l'acqua con le mani, levò lo sguardo e vide che Lori aveva rientrato i remi e si riposava con un'espressione che le fece dire, tanto per dire qualcosa: «Devi essere stanco. Sì, riposati un po', lascia che voghi io, mi farà bene. Da quando sei venuto tu io sono troppo pigra e oziosa». Non sono stanco. Se vuoi prendi un remo, posto ce n'è, ma bisogna che io mi segga quasi nel mezzo del banco, se no il battello non sta dritto. Osservò Lori, al quale pareva che quella soluzione non dispiacesse affatto. Amy sentì che la sua proposta non aveva migliorato di molto le cose. Si strinse nella terza parte del banco lasciatale, scrollò i capelli che le caddero sul volto e prese da lui uno dei remi. Ella vogava bene, come faceva bene tante altre cose, ma quantunque adoperasse tutte e due le mani e Lori una sola, i due remi battevano l'acqua in tempo e la barca filava dritta e leggera. Come si voga bene insieme, noi due? Disse Amy, alla quale in quel momento chissà perché il silenzio dava un certo disagio. Ah sì, molto bene, tanto che vorrei vogare tutta la vita nello stesso battello. La formula era chiara. E Lori fece seguire una domanda con tutta la tenerezza che la sua voce poteva assumere. Vuoi, Amy? Sì, Lori. La risposta fu data a bassa voce. Allora, smisero ambedue di vogare e senza volerlo il loro battello aggiunse un grazioso quadretto di amore umano e di felicità ai quadri dissolventi che lo specchio del lago rifletteva continuamente. Capitolo 19. Solitudine. È facile promettere di sacrificarsi quando già si vive per un'altra persona e anima e cuore sono continuamente purificati dall'esempio di un essere caro, ma quando la voce che ci dava coraggio tace, la lezione quotidiana viene a mancare. La presenza diletta ci abbandona e nulla rimane fuorché la solitudine e il dolore. E allora diventa difficile mantenere la promessa. Come poteva fare Joe a consolare il babbo e la mamma mentre il cuore non faceva che dolerle per la sorella perduta? Come poteva mantenere la serenità nella casa quando ogni luce, ogni calore, ogni bellezza pareva l'avessero disertata, fin dal momento in cui Beth aveva lasciato la dimora passeggera per quella eterna? E dove mai trovare da fare qualche cosa di utile e di consolante che riempisse il tempo già occupato dalla continua assistenza che trovava il suo premio in se stessa? Ella si sforzava di compiere il proprio dovere, così, alla cieca e senza speranza di riuscirvi, ma in segreto, contro quel dovere, si ribellava. Le pareva ingiusto che le gioie diminuissero e il fardello da portare crescesse e l'esistenza fosse ogni giorno più dura e faticosa. Era proprio vero che a certe persone tocca tutto il sereno e a certe altre tutto il nuvolo? Era un'ingiustizia. D'essere buona lei si sforzava più di Amy, ma non ne aveva ricompensa, solo delusioni, fastidi e fatica improba. Povera Jo, furono giornate molto nere per lei. Una specie di disperazione la prendeva al pensiero di tutta una vita da passare nella casa addormentata, fra il tran tran delle faccende quotidiane, interrotto appena da qualche gioia ben piccola, ben meschina, sotto un peso che nulla pareva dovesse mai alleviare un poco. Non posso, non ero nata per una vita così. Sento che un giorno o l'altro io mollo e faccio qualcosa di disperato, se non viene qualcuno in mio aiuto. Così diceva Joe a se stessa quando i suoi primi sforzi riuscivano inutili e cadeva in uno stato d'animo ogni giorno più triste, più avvilito, come succede spesso quando una volontà forte è costretta a cedere all'inevitabile. Ma qualcuno le veniva in aiuto. Joe non li riconobbe subito, i suoi angeli buoni, perché le apparivano sotto aspetti familiari e le loro formule magiche non erano diverse dalle povere parole della vita di tutti i giorni. Qualche volta di notte la si destava all'improvviso, le pareva che Beth la chiamasse. Ma il letticciuolo di Beth era sempre vuoto. E Joe ripeteva piangendo, con la disperazione che non si vuole rassegnare: «Ritorna, Beth, ritorna!» Ma le braccia che cercavano ancora la cara persona non cercavano invano. Come un tempo lei udiva prontamente il più lieve sospiro della povera inferma. Adesso c'era una madre che udiva il suo singhiozzo e veniva a consolarla. E non solo con la parola, ma con una tenerezza paziente che le sapeva alleviare il dolore col tocco della mano leggera, con le lacrime che le ricordavano senza parlare che c'era al mondo un dolore maggiore del suo, con qualche sillaba bisbigliata appena, ma più eloquente di una preghiera, perché univa la rassegnazione che spera al più grande dei dolori che può toccare il cuore umano. Momenti sacri, in cui un cuore parla a un altro cuore nel silenzio della notte, e l'angoscia diventa conforto, e il pianto ritrova qualche sollievo, e l'amore si fa più forte. Allora Joe sentiva che il suo fardello era più lieve e la vita più sopportabile, perché la vedeva dal rifugio delle braccia materne. In uno di quei giorni Joe entrò nello studio del padre e, china sulla buona testa grigia, che si levava a salutarla col suo sorriso tranquillo, disse umilmente: «Babbo, parlami come parlavi con Beth. Ne ho più bisogno di lei, mi sento tutta a rovescio». «Oh, cara, non potevi darmi una consolazione più grande di quella che mi dai con codesto desiderio», le rispose il padre con un tremito nella voce, abbracciandola come se anche lui avesse bisogno di avere conforto e non si vergognasse di chiederlo. Seduta sulla piccola sedia di Beth, accanto al seggiolone del babbo, Joe gli confidò il suo turbamento, il suo dolore senza rassegnazione, gli sforzi inutili, la mancanza di fede che le faceva vedere la vita così nera. Insomma, tutta la sua disperazione. Gli parlò con fiducia ed egli le diede tutto l'aiuto di cui aveva bisogno e fu una consolazione per ambedue, che ormai non solo si potevano parlare come padre e figlia, ma anche come uomo e donna, capaci e ben contenti di offrirsi l'un l'altro non solo amore, ma comprensione piena. Ore felici di raccoglimento nel vecchio studio che Joe chiamava la chiesa con un solo fedele e dal quale ella usciva sempre con coraggio rinnovato e vi ritrovava la serenità e la rassegnazione. I suoi genitori, che avevano saputo insegnare a una figlia ad affrontare la morte senza timore, cercavano ora di insegnare all'altra ad accettare la vita senza perdersi di fede e di forza, ad approfittare dei suoi doni con riconoscenza e a goderli per quanto era possibile. Un altro aiuto Joe lo trovò negli umili doveri, nei sani piaceri, che ebbero anch'essi la loro parte nella sua salvezza, una parte che ella a poco apprese a vedere e ad apprezzare. La scopa e lo strofinaccio ora non potevano esserle odiosi come una volta, perché li aveva usati Beth. Un po' del suo spirito casalingo pareva aleggiare intorno al piccolo cencio e al vecchio fascio di meliga, che non erano mai gettati in un angolo. E mentre li usava, Joe si accorgeva di canticchiare, non volendo, le stesse ariette di Beth, di procedere nelle faccende con lo stesso ordine di Beth, di dare come lei qua e là il piccolo tocco che fa apparire tutto nuovo e in ordine. Questo è il primo passo per far bella e felice la casa, ma Joe non lo sapeva, finché un giorno Anna le disse, stringendole le mani: «Brava, brava, tu vuoi proprio non far sentire a me che il nostro piccolo angelo non c'è più. Noi si parla poco, ma si vede molto, e vedrai che il Signore ti benedirà per ciò che fai, te lo dico io». Quando poi Joe stava a cucire insieme con Meg, si accorgeva dei progressi che aveva fatto sua sorella maggiore. La sua conversazione era interessante, ora sapeva tante cose, si era fatta esperta dei buoni impulsi, dei pensieri, dei sentimenti femminili. Era sposa e madre felice e sapeva quanto bene facesse il marito ai bimbi, ed essi a lui. Dopotutto è una gran bella cosa il matrimonio. Non so se mi farebbe bene come a te, dato e non concesso che provassi anch'io, disse Joe nella stanza dei bimbi, che era tutta sottosopra, mentre lavorava alla costruzione di un cervo volante per Demi. È proprio quello che ci vuole per te, Joe, per far affiorare la tenerezza, la femminilità che c'è nella tua natura. Tu sei come la castagna nel riccio, che fuori è tutta punta e dentro è imbottita di seta. E il frutto è dolce. Ma a questo bisogna saperci arrivare. Un giorno o l'altro l'amore lo rivelerà il tuo cuore e la scorza pungente cadrà. Signora Meg, questo effetto lo fa il gelo. E poi ci vuole anche una buona scrollata. Ci sono tanti ragazzi che vanno per castagne, ma io non ci tengo a essere messa nel sacco». E così dicendo, Joe seguitava a pennellare di colla l'aquilone, che nessun vento al mondo avrebbe mai sollevato perché Daisy ci si era attaccata come zavorra. Meg si mise a ridere, lieta di ritrovare un guizzo dell'antico spirito di Joe, ma sentì il dovere di sostenere la propria teoria con ogni argomento. E non parlò del tutto invano, specialmente perché dei maggiori argomenti due erano i bimbi che Joe amava tanto. Per dischiudere certi cuori, la chiave più sicura è il dolore, e Joe Era quasi pronta ad andare a finire nel sacco delle castagne, solo ci voleva ancora un po' di sole per terminarla di maturare e per farla schiudere. Non già la scossa impaziente di un ragazzo, ma la mano di un uomo che aprisse con dolcezza il riccio ed estraesse il frutto. Se Gione avesse avuto sospetto, si sarebbe raccolta in sé ostinatamente, ma per fortuna ella non pensava a se stessa, sicché, quando giunse l'ora, cedé. Se Jo fosse un'eroina da romanzo, a questo punto la vedreste diventare una santa, rinunciare al mondo e andare facendo il bene con un cappello ridicolo e le tasche piene di opuscoli di propaganda. Ma vedete, Jo non era un'eroina, era un essere umano, una ragazza che lottava come tante altre e che si comportava come voleva la sua natura. Ed era triste, dispettosa, distratta, energica, secondo l'umore del momento. È altamente virtuoso dire che vogliamo essere buoni, ma non ci si riesce in una volta sola. Ci vuole uno sforzo lungo e grosso e il concorso di altri per prendere la strada giusta. Ora Joe era a questo punto. Andava imparando qual era il suo dovere e le dispiaceva di non riuscire a compierlo. In quanto poi a compierlo sorridendo, quella era un'altra faccenda. Tante volte si era proposta di fare qualche cosa magnifica, difficile finché si vuole. Ebbene, adesso era il momento. Cosa c'era infatti di meglio che dedicare la propria vita al babbo e alla mamma e cercare di render loro piacevole la casa come essi l'avevano resa a lei? E se per fare più bella l'impresa ci dovevano essere delle difficoltà, che difficoltà si poteva desiderare più grande di quella rappresentata dalla rinuncia di una ragazza irrequieta, ambiziosa, a speranze, progetti e desideri per adattarsi bravamente a vivere per gli altri? La provvidenza la prendeva in parola. Ecco il compito. Non quello che ella si aspettava, ma meglio, perché si trattava di rinunziare ad ogni egoismo. Decise di provare e nel primo esperimento ebbe, come si è accennato, qualche aiuto. Ma un altro ancora doveva averne, ed ella lo accettò non come una ricompensa, ma come un conforto. Non altrimenti, nel pellegrinaggio del cristiano, questi accetta il ristoro offertogli dal piccolo albero alla cui ombra si riposa durante l'ascensione della collina chiamata difficoltà. Perché non scrivi? Una volta era la tua felicità? Le chiese la madre un giorno che la vedeva rannuvolata e scoraggiata. Oh, non ne ho voglia. E anche se l'avessi, chi ci baderebbe a quello che scrivo io? Noi? Scrivi qualcosa per noi e non pensare alla gente. Provati, cara. Sono certa che ti farà bene, farà molto piacere a noi. Ah, non credo che lo potrò. Ma Joe tornò al tavolino e si mise a rivedere i suoi manoscritti. Un'ora dopo fece capolino alla porta sua madre e la vide che scribacchiava con lena. S'era rimesso il grembiulone nero e aveva l'espressione assorta di un tempo. La buona signora March sorrise e si allontanò in punta di piedi, ma nel racconto che ne venne fuori c'era qualcosa che andava dritto al cuore. Tutti in casa ne risero e ne piansero, e il babbo, assolutamente contro il volere di Joe, volle mandarlo a un magazine assai diffuso. E con grande sorpresa di Joe fu accettato e pagato. Non solo, ma le chiesero anche dell'altro. Giunsero poi varie lettere da persone la cui lode era un grande onore. Il racconto venne riprodotto da altri giornali. Non soltanto gli amici, ma anche persone strane lo ammirarono. Una cosa tanto piccola, ma un gran successo. E Jo rimase più stupita di quando il suo romanzo aveva riscosso tante lodi e insieme tante critiche. Non capisco, cosa mai ci troveranno in un raccontino tanto semplice per farne tante lodi? Chiedeva stupita. C'è la verità, Jo. Ecco il segreto. Umorismo e commozione lo ravvivano e hai trovato il tuo stile, finalmente. Quando hai scritto, non pensavi alla fama o al guadagno, ci hai messo dentro il cuore, figliola. E adesso, dopo l'amaro, viene il dolce. Continua così e rallegrati anche del successo, come ci rallegriamo noi. Se c'è in quello che ho scritto qualcosa di buono o di vero, non è roba mia. Lo debbo a te e alla mamma e a Beth. Jo era commossa per l'elogio di suo padre, più che per qualunque lode le avesse tributato il mondo. E così, ammaestrata dall'amore e dal dolore, Jo scrisse altri racconti e li mandò per il mondo a procurare amici a se stessi e a lei. Le pareva assai buono il mondo per quelle sue umili creazioni. Il fatto è che il mondo le accoglieva molto bene e la loro autrice, con la posta, riceveva numerosi attestati che le erano di gran conforto, come le notizie dei figli buoni che hanno fatto fortuna. Quando Amy e Lori scrissero annunziando il loro fidanzamento, la signora March temeva che fosse difficile per Jo rallegrarsene, ma i suoi timori ben presto svanirono. Sulle prime Jo si fece molto seria, ma prese la cosa con grande calma ed espresse auguri e speranze per i due ragazzi ancora prima di rileggere la loro lettera, la quale era una specie di duetto scritto in cui essi cantavano alternativamente le lodi l'uno dell'altra, cosa piacevolissima perché non c'era nessuno a contraddirli. «Sei contenta, mamma?» chiese Jo quando deposero quel fascio di parecchie pagine fitte e si guardarono. «Sì». Lo speravo già fin da quando Amy scrisse che aveva rifiutato Fred. Ero sicura che si era destato in lei qualcosa di meglio di ciò che tu chiami interesse. Nelle sue lettere c'erano qua e là certe allusioni che mi davano il sospetto che l'amore avrebbe finito col prevalere. L'amore e Lori. Tu sei fine, mamma, e non ne parli. Non me ne hai detto una parola. Così deve essere una mamma, vista acuta e discrezione, quando ha figliuole da sistemare. Quasi quasi temevo di metterti quell'idea nella testa. Tu forse avresti scritto loro per congratularti prima che la cosa fosse decisa. Non sono mica più la sventata che ero una volta, sai. Adesso di me ti puoi fidare. Mi sono fatta seria e assennata. Potrei assumere anche la parte di confidente ormai. Lo so, cara. E per confidente ti avrei presa, ma temevo che ti potessi dispiacere che il tuo Teddy amasse un'altra. Oh, mamma, davvero mi credevi tanto sciocca ed egoista? Dopo aver rifiutato il suo amore quando lo potevo accettare? Allora eri sincera, Jo, lo so, ma dopo ho pensato che se egli fosse tornato e ti avesse chiesto di nuovo di amarlo, forse avresti potuto cambiare idea. Perdonami, cara, si vede che soffri della tua solitudine. Qualche volta c'è nei tuoi occhi un'espressione di rimpianto che mi commuove. Ho pensato, quel ragazzo se tentasse ora riempirebbe un vuoto. No, mamma, è meglio che sia andata così. Sono contenta che Amy abbia imparato ad amarlo, ma in una cosa hai ragione, mamma. Sola mi sento. E forse, se Teddy avesse provato ancora, gli avrei magari potuto dire di sì. Non perché l'ami, ma perché ho più sete d'amore adesso che allora. Ne ho piacere, Joe, perché vedo che ti fai. Ma che ti vogliamo bene siamo in tanti, a cominciare dal babbo e da me. E poi le sorelle, gli amici e i bambini di Meg. E poi vedrai, verrà quello che ti conquisterà. Il più bell'amore è quello della madre. Ma non mi vergogno di dirti che vorrei provarli tutti. È strano, ma più cerco di accontentarmi degli affetti che posseggo, più sento desiderio d'amore. Non credevo che nel cuore ci fosse posto per tanti affetti. E mentre una volta il vostro affetto mi bastava, ora non capisco. Io sì, figliuola, disse la signora March col suo sorriso esperto. Mentre Joe tornava a sfogliare le lettere dei fidanzati per rileggere ciò che Amy scriveva di Lori. Diceva Amy: «È tanto bello essere amati come Lori ama me. Non è mica sentimentale, non ne parla mica tanto, ma in complesso io lo vedo. Io sento in tutto ciò che fa e che dice. E mi rende così felice e così umile che mi pare d'essere diventata un'altra. Finora non lo sapevo quanto è buono, generoso, affettuoso, ora che gli leggo nel cuore. Lo trovo così pieno di nobili impulsi e di speranze e di propositi che sento una gran gioia quando penso che quel cuore è mio. Lui dice che è sicuro, adesso che a bordo ha me come compagna e tanto amore come carico, di fare una traversata ottima. Io glielo auguro sempre e cerco di essere in tutto quale egli mi vede, perché il mio bravo capitano io lo amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E non lo lascerò mai, finché il destino ci vorrà tenere uniti. Oh, mamma, io non lo sapevo che paradiso può diventare la terra quando due esseri si amano e vivono l'uno per l'altra. E questa è la nostra Amy, fredda, riservata, mondanamente corretta. È proprio vero che l'amore fa miracoli. Come devono essere felici? Esclamò Joe, deponendo con rispetto i foglietti froscianti della lettera, come si farebbe con un libro che si ama, uno di quei romanzi che afferrano il lettore e lo tengono fino all'epilogo. È allora che egli si ritrova solo solo tra le fatiche della vita di tutti i giorni. Poco dopo, Joe salì al piano di sopra perché era una giornata piovosa e non si poteva uscire a passeggio. Sentiva una grande inquietudine, uno stupore un po' doloroso, ma rassegnato al pensiero che una sorella avesse tutto ciò che desiderava e un'altra niente. In fondo non era così, e lei lo sapeva, e cercava di scacciare quell'idea, ma la sete di affetto rimaneva, più forte che mai. Anche lei sognava di amarsi col cuore e con l'anima, e tenersi stretti finché il destino ci lascerà insieme. Le gambe irrequiete la portarono lassù, in soffitta, che era il luogo dove andavano sempre a finire le agitazioni di Joe. C'erano, fra tante cose, quattro cassette in fila, ciascuna col nome di una delle quattro sorelle, e contenevano i ricordi dell'infanzia e della fanciullezza, ormai passate per tutte e quattro. Joe le aperse e ci frugò dentro. Quando arrivò alla sua, posò il mento sull'orlo e guardò con occhio distratto in quel caos di oggetti di ogni specie. Al fine, la sua attenzione fu richiamata da un pacco di quaderni di scuola. Li prese e cominciò a sfogliarli. E rivisse tutto quel simpatico inverno che aveva passato dalla buona signora Kirk. Sulle prime ella sorrideva, poi divenne pensosa e infine triste. Fra le pagine trovò un breve messaggio scritto di mano del professore. Le cominciarono a tremare le labbra. I quaderni posati in grembo scivolarono a terra col bigliettino che recava le parole buone dell'amico. Le pareva che quelle parole prendessero ora un significato nuovo e toccassero un punto più sensibile del cuore. Aspettami, amica, forse verrò tardi, ma verrò. Ah, fosse vero, tanto gentile, tanto buono, tanto paziente sempre con me, il mio caro vecchio Fritz. Quando era vicino l'apprezzavo abbastanza, ma che gioia sarebbe vederlo adesso che mi sembra di essere tanto sola. Strinse fra le dita il bigliettino fortemente. Quella promessa ancora doveva essere mantenuta. Joe si abbandonò col capo sopra un sacchetto di cenci, comodo cuscino lassù, e lasciò scorrere le sue lacrime, come il cielo che di fuori lasciava cadere le sue, rumorosamente, sopra le tegole del tetto. Pietà di se stessa? Solitudine? Scoraggiamento? O era il destarsi di un affetto che da lungo tempo attendeva, paziente come colui che l'ispirava? Chi potrebbe dirlo.